La rosa purpurea di Franco D'Assisi. Ben ritrovati alla Rosa Purpurea, un saluto da Franco D'Assisi. Eccoci all'ora di cinema settimanale di Radio 24. Settimana d'autore e d'orrore, con Il Concerto e Paranormal Activity. Tanto lassù, sulle vette della classifica, comanda sempre Avatar. Titoli di testa. Commuove e diverte. È Il Concerto, il nuovo film di Radu Mihaileanu che aveva incantato il mondo con Trend V. Il regista ne parla alla Rosa Purpurea. Poche migliaia di dollari spesi, centinaia di milioni guadagnati. Arriva in Italia il fenomeno Paranormal Activity, l'horror da camera firmato da Oren Peli. Il regista ne parla ai nostri microfoni. Il 3D è davvero il futuro del cinema? Se n'è discusso al Future Film Festival di Bologna. Il nostro reportage. 20 anni dopo il primo capitolo, Oliver Stone torna a Wall Street, protagonista del sequel sempre un grande Michael Douglas, il primo trailer originale e tutte le anticipazioni nella nostra rubrica Trailer USA. Concerto per orchestra e violino di Tchaikovsky, un capolavoro della musica sinfonica che diventa anche il soggetto e il protagonista di un film. Si intitola per l'appunto Il Concerto, lo ha diretto Radu Mihaileanu, che fra poco avremo l'occasione di ascoltare qui alla Rosa Purpurea, e un regista rumeno di nascita ma francese d'adozione, famoso in tutto il mondo per un film, Trend V, in cui qualcuno dice prima della vita è bella di Benigni, ma è una causa ancora aperta, provava il registro tragicomico applicato al racconto della Shoah. Ora, con Il Concerto, Mihaileanu mantiene questa capacità di balzare dalla lacrima alla risata in una commedia picaresca che vede protagonista una falsa orchestra del Bolshoi impegnata in un vero concerto a Parigi. Anni 80, Andrei Filippov è un grande direttore d'orchestra al Bolshoi di Mosca. Il regime sovietico sente i primi scricchiolii sotto i piedi e per questo mostra la sua faccia più feroce. A Filippov non viene perdonato il fatto di non aver voluto licenziare alcuni musicisti ebrei. Paga con il suo posto, scende dal podio, bacchetta spezzata, insieme alla carriera e alla vita stessa. Lo ritroviamo 30 anni dopo, addetto alle pulizie nel grande teatro, mentre di nascosto segue le prove dirigendole col pensiero. Un giorno arriva un fax, è l'invito del Teatro Châtelet di Parigi per un concerto. Filippov se ne impossessa e, nascondendolo alla nuova dirigenza, consuma la sua vendetta: ricomporre un'orchestra e andare lui a Parigi a dirigere quel concerto. Le sue ragioni, scopriremo, sono molto profonde. Per prima cosa Filippov ne parla con un paio di amici complici musicisti, poi va a trovare il vecchio impresario di partito che si mette alla testa della sedicente organizzazione. Molto bene, allora Ivan, il nostro concerto le sembra che sia possibile? Ah, dipende da quali sono condizioni. Dovremmo diniegare un concerto molto lucrativo. Beh, sul vostro sito ho letto che siete completamente liberi. È un concerto privato, ma molto privato. Per il re di gas in Russia orientale, capisce? E il compleanno della sua concubina, come dite voi. Un concerto discreto e intimo, ma tutta l'orchestra ha convitata. Senta, propongo di inviarle lo stesso oggi un protocollo d'intesa cordiale per spremervi le nostre condizioni. E se la cosa la affascina, possiamo immaginare di apporre rapidamente il nostro marchio. Aspetto la vostra proposta, ma sbrigatevi, abbiamo 2 settimane. E riguardo al programma? Il programma? Sì. È naturale, il programma. Il programma? Idioti, qual è il programma? Tchaikovsky. Suoneremo Tchaikovsky. Il concerto per violino e orchestra. Non lo sento più. No, si ricomincia. Scusi, hai detto Tchaikovsky? Tchaikovsky. Eh già, Il Concerto per violino e orchestra di Tchaikovsky, una delle composizioni più ostiche della musica sinfonica, vero banco di prova per ogni orchestra e soprattutto per ogni violinista. Filippov comincia la ricerca dei musicisti, va a battere alle porte dei suoi vecchi orchestrali, che ormai fanno i lavori più disparati, ma che accettano con entusiasmo. In fondo, una gita a Parigi non fa mai male. Mancano i violini e allora si va in un campo di gitani. I violini zigani, si sa, non tradiscono. Manca il violoncellista e via con l'ingaggio di un ricco oligarca che suona da cani, ma un sacco di soldi. Manca l'ingrediente più importante, il violinista, il solista che possa interpretare il concerto per violino e orchestra di Tchaikovsky. Filippov ha le idee chiare, un solo nome, Anne-Marie Jacquet. La sua manager, Ghislaine, sembra volerla tenere lontano da quel contatto, ma l'artista impone la sua volontà. Era Duplessis. Teatro Châtelet per il concerto di Tchaikovsky. Fra 2 settimane, figurati. Proprio fra Madrid e Chicago. E si svegliano oggi, che modi. Con quale orchestra? Il Bolshoi. Cosa? Il Bolshoi, hai detto no? Il direttore è sconosciuto e il Bolshoi non è più quello che era. È un rischio troppo grosso. Come si chiama il direttore? Non lo so, non me lo ricordo. Mi sembra Andrei Filippov Marzov, una cosa simile. Andrei Filippov. E lui ti dice qualcosa? Se mi dice qualcosa. Il maestro Ghislaine, il maestro. È una leggenda vivente, Tchaikovsky con lui. E ci pensi anche? Non dirige più da 30 anni. Chiama Duplessis. Lo farò a qualunque condizione. Una volta a Parigi la compagnia di giro si perderà in Cozzoviglie, le prove salteranno, Andrei Filippo avrà le mani nei capelli, anche perché le bugie hanno le gambe corte, soprattutto nella musica, e alle prime prove Anne-Marie comincia a sospettare qualcosa. Ma noi sospendiamo qui il racconto e andiamo un po' all'analisi di questo film, un film di quelli che riconciliano con il cinema, questo Il Concerto, da questo fine settimana in 120 schermi italiani. Disteso su un tappeto di commedia grottesca, il film ci racconta tante cose, che non è mai troppo tardi per riprenderci quel che la vita ci ha tolto, che la musica è il più forte armonizzatore degli animi umani, che spesso è più difficile far la pace con i propri fantasmi piuttosto che far lavorare insieme 60 musicisti. Lo spettatore entra col sorriso in questa avventura disperata di un uomo buono, Andrei Filippov, interpretato da un grande Alexei Gushkov, e ne esce con le lacrime agli occhi, il pianto disperato di Anne-Marie, un'ottima Mélanie Laurent, mentre raccoglie l'applauso dello Châtelet e da Pelle d'Oca. Un film da non perdere, insomma. La rosa purpurea. Di nuovo insieme alla Rosa Purpurea sulle note di Tchaikovsky, perché stiamo parlando de Il Concerto, la nostra scelta per il weekend al cinema. E diamo il benvenuto alla Rosa Purpurea al regista Radu Mihaileanu. Ho subito una domanda per lei. Lei è rumeno e da molti anni vive in Francia. Nel film la componente francese c'è, ma quella rumena è sostituita da quella russa. Perché? Buongiorno. Buongiorno. Sì, è vero, io sono originario della Romania, ma sono 30 anni che vivo in Francia. La scelta dell'ambientazione in Russia deriva innanzitutto da un fatto realmente accaduto, su cui si basa il film, di una falsa orchestra del Bolshoi che si è esibita a Hong Kong nel 2001. E poi perché di fatto credo che la Russia sia tra le 3 o 4 potenze mondiali in termini di storia della musica dopo Germania, Austria e forse Italia. Quindi volevo la cultura musicale della Russia proprio per la sua unicità, per il temperamento slavo tipico di quel paese e anche per questa tendenza della cultura russa a spingersi alla follia estrema. Ecco perché la Romania non sarebbe stata sufficientemente rappresentativa in questo senso. Avevo bisogno dei sentimenti e dei desideri così estremi della Russia. La musica, secondo lui, ha diciamo questa potenza, questa capacità di essere metafora, di diventare un linguaggio per spiegare dell'altro, raccontare dell'altro? Oui, forcément, je crois que la musique est d'abord. Sicuramente la musica è il linguaggio universale e il termine universale è particolarmente appropriato se consideriamo la musica come energia in grado di mettersi in relazione con l'energia che ognuno di noi ha dentro di sé e che utilizza per comunicare con l'universo in cui si trova. In Francia si dice che ognuno di noi ha la sua musica interiore. Anche se non sappiamo suonare uno strumento o non capiamo molto di musica, abbiamo comunque un ritmo che è quello che ci consente di entrare in contatto con il ritmo degli altri. Attraverso la musica, il ritmo e questo scambio di energia possono accadere delle cose miracolose. Per esempio, in Cina la musica viene addirittura utilizzata per curare delle malattie. Donc on agit sur les énergies internes des êtres. Quanto c'è di Radu Mihaileanu nel personaggio del direttore d'orchestra Andrei Filippov? Anche lui in fondo è andato via, è fuggito da un paese dove c'era una feroce dittatura comunista come la Romania di Ceausescu. Ecco, ci sono delle analogie, ci ha messo dentro qualcosa di sé in questo personaggio? Oui, il y a un petit parallèle effectivement le fait que j'ai quitté la Romania. Sicuramente ci sono dei punti di contatto, dei parallelismi tra me e il direttore d'orchestra del mio film. Quando sono scappato dalla Romania mi sentivo in ginocchio, avevo perso fiducia in me stesso e c'è stato un momento in cui ho pensato che non sarei più riuscito ad alzarmi. Quando sono arrivato in Francia però mi sono sentito fortemente limitato, non solo a causa della barriera linguistica, ma anche per l'idea di non poter più tornare nel mio paese e di non poter più vedere la mia famiglia per lungo tempo. non mi sentivo all'altezza del paese in cui ero andato, sia per quanto riguarda la comunicazione, sia per le possibilità di sostentamento. Al di là di questo parallelismo, sicuramente ci accomuna anche questa ricerca dell'armonia suprema. Ogni artista la persegue, è esigente, vuole continuare a cercare, perché la cosa che più teme è la mediocrità. L'altra analogia che si può tracciare è che sia un direttore d'orchestra che un regista di fatto dirigono altre persone e sono responsabili degli sbagli che queste persone possono fare e quindi, in ultima analisi, hanno la responsabilità di armonizzare la squadra. Ecco, una valutazione che è insieme un complimento e anche una domanda. A mio modo di vedere, la cosa più bella del film è la capacità che Mihailanu ha di giocare continuamente con i sentimenti, con il tono del film, spesso di grande umorismo, quasi sempre, diciamo, permea proprio questo film, ma poi improvvisi momenti drammatici gestiti come se fino al momento prima il film fosse stato un film drammatico. Capacità sicuramente anche dei grandi attori che ha scelto. Come ha lavorato a questo aspetto? Quanto è rischioso per un regista giocare con questi due registri? Ma non sono in grado di rispondere. È una domanda che mi viene fatta spesso e bisognerebbe forse farla a chi meglio di me ha saputo mescolare questi due registri. Mi riferisco a Lubitsch, a Chaplin, a Billy Wilder. Credo comunque che faccia parte della natura umana. Forse deriva dalla mia identità romena, appunto, dal fatto che sono ebreo ed è comunque il modo in cui io affronto la vita quotidiana. Di fatto è il nostro meccanismo di difesa e di resistenza a quello che la vita ci riserva. Capita spesso, infatti, che quando stiamo vivendo un momento tragico, a un certo punto ci venga in mente qualcosa che alleggerisce il tono, che ci riporta su un piano più leggero. Così pure in un momento di grande felicità può accadere che avvenga un evento tragico. La vita è fatta così e da questo scaturisce il mio cinema, con una sorta di gioco di equilibrio, un numero da circo di questi due estremi. Del resto la vita è davvero un incidente nell'eterno caos della morte. Se uno ci pensa, la vita dovrebbe essere più tragica, perché di fatto sappiamo, fin da quando nasciamo, che andiamo incontro alla morte. Noi viviamo cercando di spezzare questa tragedia, che è il destino di ogni essere umano, e da questa spaccatura, da questa crepa che riusciamo a creare, può sgorgare l'umorismo e l'elemento della commedia. Infine, una spiegazione che dobbiamo ovviamente agli amici che ci stanno ascoltando e che sono musicofili, perché ha scelto proprio il concerto per violino e orchestra di Tchaikovsky. Beh, innanzitutto perché volevo un concerto che fosse russo, che fosse molto romantico e che avesse questa tendenza all'estremo in modo da poter riflettere appunto il temperamento slavo. E poi volevo che ci fosse il dialogo tra questi due elementi. Da un lato un'orchestra potente, forte e in grado di esprimere una grande energia vitale, cosa che c'è in questo brano con i due crescendo, e dall'altro un aspetto un po' più nostalgico, più rivolto verso il passato, più malinconico, che è appunto il violino. Ho ascoltato tanti brani di diversi compositori, di Rachmaninoff, di Shostakovich e anche di Tchaikovsky, e quando ho trovato questo concerto per violino e orchestra ho capito nell'esecuzione che poi ho scelto che era proprio perfetto per il tema del mio film. Grazie Radu Mihailanu. Merci beaucoup. Ciao. E abbiamo parlato con Radu Mihailanu qui alla Rosa Purpurea di Il Concerto, la nostra scelta del weekend. Adesso apriamo la prima finestra invece sul DVD Game. Come sempre, appassionati di un video, siate pronti perché cominciamo a farvi ascoltare le tracce misteriose di un film che dovete indovinare per provare a vincere proprio il DVD di quel film. Oggi giochiamo con un film, beh, siamo sicuri, farà piacere a molti di voi. Ascoltiamo la prima clip. Le porgo le mie scuse, mademoiselle. Non volevo infastidirla. Cercavo di essere amichevole. Non voglio essere sua amica. Perché no? Non faccia il bambino, sa perché. La Rosa Purpurea @radio24.it, l'indirizzo di posta elettronica al quale scrivere, di che film si tratta. Vi ricordo che c'è in palio la versione in Blu-ray, quindi insomma particolarmente preziosa quella ad alta definizione. Più tardi altre possibilità per indovinare. E siamo alla seconda proposta di questo fine settimana, 15.000 dollari di budget, pensate, oltre 120 milioni di dollari di incasso negli Stati Uniti. È il film più remunerativo dell'anno, anche più di Avatar in proporzione a quanto è costato, e si intitola Paranormal Activity. Molti di voi saranno incappati nel trailer che diluvia dalle TV pubbliche e private ormai da oltre un mese, un horror da camera, da letto, potremmo dire, è stato definito, che riprende la tecnica di Blair Witch Project o del più recente REC, ovvero lo spettatore vede tutto ciò che viene inquadrato dalla telecamera dei protagonisti. Perché non prendiamo una tavola Ouija? Scopriamo che cosa vuole, gli diamo quello che vuole e poi sparisce. Perché con ogni probabilità vuole Katie. Sì, ma... E se prendi in mano una tavola e provi a giocarci un po', l'entità sentirà che stai cercando di comunicare con lei e significa aprire la porta e invitarla a entrare. Che è successo? Che stai facendo? Che fai? C'è qualcosa lì fuori. E via dicendo. San Diego, California, Mika e Katie sono fidanzati e convivono da quando a 8 anni Katie dice di essere in contatto con un'entità ultraterrena che sbatte porte, avete sentito, apre e chiude rubinetti e via dicendo. Mika è scettico ma vuole aiutarla, perciò decide di filmare tutto, anche quando dormono, in modo da poter catturare traccia dell'eventuale presenza. Il film è proposto quindi allo spettatore come se si trattasse di un montaggio dei filmati di Mika. Mi hai promesso che non avresti scherzato con quell'affare. L'ho presa in prestito. Ma non mi importa che hai fatto. Ora la prendi e la butti e ce ne andiamo. Niente più telecamera, niente di niente. Non ne voglio sentir parlare, neanche una parola. Katie. No, no, niente Katie. Io me ne vado. Vieni con me, adesso non mi vedi più. No, dai, aspetta, che fai? Katie, ascoltami. Katie. Non ti voglio sentire. E allora, è arrivato il momento del giudizio per Paranormal Activity. Ben ritrovato Boris Sollazzo, uno dei nostri, le nostre punte di diamante della squadra di recensori della Rosa Purpurea. Ciao Boris. Grazie Franco, grazie anche agli ascoltatori. Insomma, Paranormal Activity mi viene la battuta, anche se così passerò per essere più che altro il più acido dei tuoi recensori. Di Paranormal c'è solo l'incasso, a mio parere, nel senso, e la poca intelligenza probabilmente dei due protagonisti. Beh, insomma, ne abbiamo stroncato un altro, ok, vabbè, ogni settimana chiaramente passa attraverso le forche caudine di Boris Sollazzo un film, questa volta è toccato a questo Paranormal Activity. Ma come lo spieghi però questo, è vero, è tutto già visto più di 1000 volte, ma perché tutte le volte allora il pubblico probabilmente di teenager eccetera in America ci casca, fra virgolette? Cioè c'è evidentemente proprio una domanda di questo tipo, anche stereotipato, di film. Allora, guarda, devo dire due cose. Uno, questo è il primo, a differenza di Blair Witch Project, anche se Blair Witch Project fu il primo a utilizzare internet in questa maniera, è il primo vero film distribuito non su internet, quindi non piratato, ma tramite internet, con una distribuzione on demand che l'ha fatto diventare un caso, quasi fosse diciamo un club a cui bisognasse iscriversi abbastanza criticamente. E poi c'è una cosa, questo film è fatto da un regista molto intelligente, che è questo Ryan Pelly, giovane debuttante, non si può definire perché ha 40 anni, con una carriera dietro di programmatore per videogiochi, uno che sa cosa pensa la gente e da emigrante israeliano che va in America sa anche cosa pensano gli americani, e quindi dove lo piazza l'horror? Non nella solita magione in aperta campagna, non vicino alla pompa di benzina nel mezzo del nulla. La piazza nella casa del sobborgo di San Diego, nella casa di Ryan Pelly, una casa normalissima in cui l'horror noi non l'abbiamo praticamente mai visto, e quello secondo me è il cortocircuito che ha fatto spaventare persino Spielberg. Cioè, gli americani ormai non si sentono sicuri da nessuna parte, nemmeno in casa, nemmeno in giardino. Si sentono sicuri appunto solo tra le quattro mura, tra le loro quattro mura, tra la loro proprietà. Bush diceva una casa per ognuno. Era l'ultimo baluardo e lui gliel'ha tolto, perché addirittura gli ha detto: guardate che quei rumori che sentite, quella corrente che sbatte le porte, le finestre, gli oggetti che vi ricordate di aver lasciato su da una parte e li ritrovate per terra, sono frutto di un demone, di un fantasma, qualcosa di cui dovete aver paura, non sono distrazione, non sono casualità. E quello credo che abbia creato il cortocircuito. Boris, l'americano è meno scafato dell'europeo e questo secondo me è il segreto. Boris, 30 secondi per una domanda. Tu hai detto il regista intelligente deve avere anche qualche mezza capacità, immagino, perché gli hanno adesso affidato un progetto piuttosto importante, penso anche abbastanza ambito, quello di Area 51. Secondo me ce l'ha, più a livello intellettuale, deve avere qualcuno che gli scrive bene le cose e senza dubbio questa è un'operazione intellettuale e commerciale molto più raffinata di quelle che abbiamo visto in precedenza, insomma, se vogliamo a livello del Cannibal Holocaust del nostro Ruggero Deodato, cioè di uno che sa quello che fa. Allora Boris, grazie per averci così raccontato un po' i retroscena e quello che c'è da aspettarsi da questo film, che comunque verrà distribuito in Italia in 330 copie, tanto per cominciare, insomma, è comunque un piccolo film, ricordo $15,000 di budget, ma è un film che arriva in Italia come un grande colossal americano, quindi sicuramente anche da noi la curiosità sarà tanta, vedremo poi quanto durerà. La rosa purpurea. Hai sentito? Sì. Oddio. Oddio. Hai visto? Ci sono impronte che entrano, ma nessuna impronta che esce. Oddio. Uno dei momenti più intensi di Paranormal Activity, ne abbiamo parlato con Boris Sollazzo, sentiamo il regista Oren Peli, gli abbiamo chiesto innanzitutto come spiega il successo, il grande ritorno del genere horror, il successo di così tanti film dell'orrore negli ultimi tempi. I think generally speaking a lot of people enjoy horror. Credo che molte persone amino guardare un film horror perché è un'esperienza che ti fa provare le paure più profonde, quelle che la vita di oggi normalmente non ti permette di sentire, visto che viviamo al sicuro. Ad esempio, nessuno ha paura di essere ucciso, ed è tutto piuttosto semplice. Quindi vedere un film horror, così come andare a Luna Park, ti dà quella scarica di adrenalina, quella sensazione di paura, anche se allo stesso tempo sai di essere completamente al sicuro. Regista tutto da scoprire, questo Oren Peli, abbiamo detto, quarantenne, di origini israeliane, gli hanno già assegnato un progetto importante come Area 51. Quali sono i suoi film preferiti e nello specifico gli horror preferiti? Anche se non è il mio film preferito, quello che mi ha fatto più paura in assoluto è L'Esorcista. Poi, per quello che riguarda l'horror, in generale più che l'horror plateale, quello truculento, pieno di sangue, preferisco quello più sottile. Film come Rosemary's Baby, The Hunting, Il Sesto Senso, The Others e naturalmente The Blair Witch Project. Quanto ai registi, sicuramente amo Spielberg, Quentin Tarantino, Rob Reiner e molti altri. Era Oren Peli, intervistato da Boris Sollazzo per La Rosa Purpurea per Paranormal Activity. Qui chiudiamo la parte dedicata all'approfondimento sulle principali novità cinematografiche di questo fine settimana e invece parliamo di cinema in 3D. Anche questa è grande attualità, ovviamente, visto come sta andando Avatar, ma anche come Avatar ha aperto un po' questo mercato. Dicevamo, un formato cinematografico vecchio ma nuovo che ritorna definitivamente, questa è la domanda. La grande domanda, quanto durerà? Durerà per sempre? È per sempre cambiato il cinema, il modo di fruirlo? Hanno cercato di rispondere a questa domanda al Future Film Festival di Bologna produttori di tecnologie, addetti ai lavori, esercenti, distributori e produttori di contenuti per esplorare il presente e il futuro del 3D. Noi abbiamo inviato la nostra Chiara Pizzimenti. Tre dimensioni per tutti, forse per troppi, ovvero il cinema ai tempi di Avatar. L'arrivo del film di James Cameron ha segnato a suon di milioni incassati l'esplosione del fenomeno 3D nel mondo, come in Italia. Nel gennaio di un anno fa, le sale italiane in cui si proiettava in 3D Viaggio al centro della Terra erano 42, per l'era glaciale 3 a fine agosto 251. Ora le sale tridimensionali sono più di 420 e l'aumento del 5% degli incassi nel 2009 è dovuto quasi esclusivamente al costo maggiorato dei biglietti per vedere le pellicole con gli occhialini. Il futuro dunque è già presente. Nicola Maccanico, direttore generale di Warner Bros. Italia. Io credo che se noi immaginiamo il mondo tra 15 anni, io esagero, avremo i film in 3D, delle televisioni in 3D, dei Blu-ray in 3D, quindi il 3D diventerà la forma di visione. Bisogna arrivarci piano piano, come dimostra Avatar, ma come dimostrano tutti gli incassi del 2009, il 3D è già entrato nelle abitudini e nei gusti degli spettatori cinematografici. Adesso dobbiamo tutti quanti strutturarci con film e sale sufficienti per dargli dei bei film in 3D e per dargli dei luoghi dove vederli. L'avvento del 3D ha velocizzato la digitalizzazione dei cinema italiani. I multiplex attrezzano una seconda o una terza sala per il 3D e c'è chi si arma di doppio proiettore per poter programmare le pellicole in tre dimensioni nelle sale con schermi più grandi. Non poi così remota l'ipotesi di aprire i cinema anche ad altre forme di intrattenimento grazie alla tecnologia, come le partite di calcio dei prossimi mondiali. Esiste però ancora un problema di spazi. Avatar, ad esempio, è destinato a rimanere al cinema ben oltre la media di 4 settimane di un film di successo e potrebbe togliere sale ad altri. Gianluca Pantano è direttore della programmazione di UCI Italia. È vero che cambia completamente il mercato, allunga la vita del film grazie anche all'interesse che il pubblico dimostra più per il 3D che non per la tradizionale 35 mm. Più un film resta nelle sale e fa questi risultati, più spazi diciamo occupano in termini poi di ricettività per gli altri prodotti. Non tutti i film però sono Avatar ed è evidente anche ai distributori il rischio di una bolla speculativa, di una corsa a girare in 3D di qualsiasi storia, anche la più inconsistente, sperando nel successo grazie alla tecnologia e a trasformare in 3D pellicole girate sotto forma tradizionale, dal primo capitolo dell'ultimo Harry Potter, atteso in autunno, al prossimo Transformers, passando per Scontro fra Titani. Riad Ohanian è Sales Manager di 20th Century Fox Italia. Il contenuto è fondamentale, chiaramente non tutti i film in 3D possono ottenere dei risultati come Avatar, questo è ben evidente. Insomma, il pubblico va fondamentalmente a vedere un bel film al cinema, vuole vedere un bel film, poi se in aggiunta c'è una grande tecnologia a supportarlo diventa una miscela esplosiva. E il primo a mettere in guardia da scorciatoie e facili make-up è un luminare del settore, Joe Lettieri, 3 Oscar in bacheca per Il Signore degli Anelli e King Kong, un quarto in arrivo come supervisore degli effetti speciali di Avatar. It still requires some learning to do. In questo momento serve una notevole conoscenza tecnica per fare un film in 3D. Bisogna avere una buona ragione per fare un film con questa tecnologia. Forse in futuro diventerà facile fare un buon 3D, come è diventato facile girare il sonoro, che non fu certo applicato subito a tutte le pellicole. Il 3D richiede lo sviluppo di una nuova grammatica cinematografica, un linguaggio filmico, e quindi ci vorrà tempo per applicare la tecnologia ai vari generi. Takes to make its way into all different types of genres. E allora andiamo a giocare dopo aver fatto questo excursus nel mondo del 3D. Come avete visto, insomma, ci sono sicuramente i petali delle rose, ma ci sono anche ancora molte spine di cui curarsi. Dicevo, andiamo a giocare ancora insieme, seconda traccia del DVD Game di questa settimana. Che ha fatto? Mi sono ritrovato sulla torre campanaria di una città occupata. Solamente io ho 1 migliaio di colpi sul Trespolo, contro 300 soldati nemici. Il nostro Blu-ray game di questo weekend, La Rosa Purpurea, @radio24.it, se avete già indovinato di che film si tratta. Diamo un'occhiata alle classifiche, lo facciamo intrecciandole con una notizia che è stata la notizia con cui si è aperta la settimana al cinema, ne avete sentito parlare anche qui su Radio 24, ovvero le nomination per gli Oscar che saranno assegnati il prossimo 7 marzo. Alla fine 9 nomination per Avatar, forse qualcuno si aspettava qualcosa di più, molte di queste nomination sono di carattere tecnico, effetti speciali, sonoro, eccetera, eccetera. Non c'è per esempio, e direi che è del tutto ragionevole, la cosa, la sceneggiatura, che non è senz'altro la cosa migliore di Avatar. Ci sono invece 9 nomination per The Hurt Locker, un grande film di Kathryn Bigelow che è passato a Venezia, pensate, nel 2008, è uscito all'inizio del 2009 anche in America e adesso parteciperà agli Oscar 2010. 9 nomination, si è detto molto sul fatto che James Cameron e Kathryn Bigelow erano marito e moglie un tempo almeno, e che quindi fra questi due ex coniugi ci sono 18 nomination in casa, che non sono poche. E anche da sottolineare il numero di nomination 8 per Bastardi senza gloria di Quentin Tarantino, perché è comunque un film di Tarantino, è un film particolare, molto d'autore, molto cinefilo, e 8 nomination sono sicuramente un grande risultato. Poi ce ne sono 6 per Precious, un film che in Italia non abbiamo ancora visto, e anche per Tra le nuvole invece con George Clooney, che è appunto ancora nei cinema italiani. Diamo un'occhiata agli attori in corsa. Per il miglior attore concorreranno Jeff Bridges per Crazy Heart, George Clooney per Tra le nuvole, Colin Firth per A Single Man, Morgan Freeman per Invictus e Jeremy Renner per The Hurt Locker. Per la miglior attrice invece lotta tra Sandra Bullock per The Blind Side e Meryl Streep per Julie and Julia, come già i Golden Globe, Helen Mirren per The Last Station, Gabouri Sibaid per Precious e Carey Mulligan per An Education, un altro film che esce questa settimana al cinema. Non abbiamo avuto modo di parlarvene perché lo spazio non era sufficiente, ma è un film che esce in 29 sale cinematografiche italiane in questo fine settimana, nelle grandi città insomma lo trovate, questo An Education. E invece il box office, Avatar continua a dominarlo. Direi che abbiamo già rotto quella barriera, quell'intercapedine che divide, diciamo così, il grande successo dal successo storico. Perché quando un film come Avatar ha fatto al terzo weekend di sfruttamento, quindi già con un po' di giorni di lavorazione alle spalle, incassa 7 milioni e mezzo in un fine settimana, portandosi a 38 milioni globali in Italia, vuol dire che adesso può succedere davvero di tutto, può andare avanti così anche per 2 mesi. È un film del quale non vediamo più la fine dello sfruttamento commerciale. Sarà capitato a tutti quelli che ci stanno ascoltando, a molti di voi, sentire l'amico, l'amica, il parente dire: ma non ho ancora visto Avatar, come se fosse una necessità, diciamo così, impellente. Ecco, Avatar sta incassando molto di più, noi l'avevamo detto all'inizio, vediamo cosa succede fra 2-3 settimane. Sta incassando molto di più di quello che ci si aspettava al terzo o quarto weekend di sfruttamento. Tutto questo significa che le sale sono piene di Avatar e non sono a disposizione per altri film. Parte molto bene il film di Gabriele Muccino, che è stato nostro ospite la scorsa settimana, Baciami Ancora, con 3 milioni e 100 mila euro al primo weekend, che in ogni altra settimana dell'anno ne avrebbero fatto incontrastato leader della classifica, ma qui invece sono la metà del primo posto di Avatar e servono solo per un secondo posto. Poi Alvin Superstar 2 è un film per ragazzi, quindi Tra le nuvole, La prima cosa bella, eccetera eccetera. Noi a questo punto andiamo a parlare invece del cinema americano, del cinema americano nuovo che si affaccia sulle sale d'oltreoceano e che noi come sempre anticipiamo nella nostra rubrica Trailer USA. Io comincerei però questa volta ascoltando un trailer, sì, ma un trailer d'epoca, perché torniamo indietro di più di 20 anni e ascoltiamo queste parole. From the director of Platoon, the next battle is in the greatest jungle of them all, Wall Street. We're going down a drain, okay? The stock is plummeting. When it hits 18, buy it all. Something big is going down. I want you to fill out the missing picture. Mr. Gecko, that's not exactly what I do. Well, you can trade your honor. I could lose my license. That's inside information. Or power. If you're not inside, you are outside. I want you with me, buddy. Quello che avete sentito è il trailer di un film che più di 20 anni fa fece scalpore e mise a nudo le bassezze del mondo della finanza. Era Wall Street di Oliver Stone con Michael Douglas. Le cose non devono essere cambiate molto se ora lo stesso Oliver Stone sente il bisogno di tornare sull'argomento con Wall Street 2. E ne parliamo appunto in Trailer USA, la nostra vetrina settimanale sulle novità americane, con la nostra Michaela Bellisario. Vi facciamo sentire il primo teaser, cioè il trailer iniziale, diciamo così, del sequel di Wall Street, e cioè appunto Wall Street, il denaro non dorme mai. Protagonista sempre Michael Douglas, regista sempre Oliver Stone, cast cambiato in parte con Shia LaBeouf, Josh Brolin, Susan Sarandon e Carey Mulligan, e il film si trasforma adesso in una sorta di thriller. Sì, ciao Franco, il denaro non dorme mai, il titolo del sequel era una delle frasi cult celebri di Gordon Gekko, il broker senza scrupoli di Wall Street, che chi ha visto il film sicuramente ricorda. 23 anni dopo, era infatti il 1987, lo vediamo uscire di prigione e il film inizia proprio da qua, dal carcere, quasi come un raccordo tra Wall Street e appunto il suo sequel. Simbolica la scena iniziale che sentiremo tra poco. Gecko si trova davanti al secondino che gli restituisce i suoi averi, i suoi effetti personali come un orologio, il portafogli, e tra gli altri gli restituisce soprattutto un simbolo, il simbolo di un'epoca che non c'è più, e cioè un telefono cellulare mastodontico. Qualcuno se li ricorderà, quelli giganteschi degli anni Ottanta. Sentiamo quindi la scena in questo passo del trailer. One silk handkerchief, one watch, one ring, one gold money clip with no money in it, and one mobile phone. Ecco, Gecko adesso è libero, ma si ritrova comunque ai margini della comunità finanziaria. Nella Wall Street che conta viene snobbato, non è più nessuno. L'unico affetto che ha è la figlia, ma lei non vuole vederlo perché chiaramente lo considera un mascalzone, insomma uno che ha truffato la finanza. E la figlia sta per sposare un giovane broker di Wall Street in grande ascesa, interpretato da Shia LaBeouf. E il film ruota tutto intorno a questo genere, che chiede al vecchio Gecko di aiutarlo a indagare sul suicidio del suo mentore a Wall Street. E così, da cattivo, Gecko diventerà una sorta di salvatore della patria di Wall Street. E questa è la scena del loro incontro. No matter how much money you make, Mr. Gecko, you'll never be rich. Why don't you start calling me Gordon? Quando hai cominciato a chiamarmi Gordon, dice Gordon Gecko al suo giovane collaboratore. Allora bene, Micaela, grazie per averci raccontato Wall Street, il trailer, Wall Street 2. Il trailer è davvero molto bello, il film esce negli Stati Uniti in aprile, mentre noi dovremo vederlo in ottobre. Ciao Franco, alla prossima settimana. La Rosa Purpurea. Di nuovo insieme alla Rosa Purpura, eccoci nella zona dedicata al cinema da consumare in casa, davanti alla TV, con un buon DVD, un Blu-ray o anche con i consigli e le proposte della televisione, in chiaro, rigorosamente in chiaro, senza pagare un euro. E come sempre di questo parliamo con gli amici di Film TV, che ci consigliano di settimana in settimana qualcosa da registrare, da ricordare, da recuperare nei palinsesti televisivi. Sentiamo qual è oggi il consiglio di Sara Sagrati di Film TV. Buonasera Franco e buonasera a tutti. Questa settimana Film TV vi consiglia qualcosa di un po' particolare. Non so se vi ricordate quando Celentano nell'87 a Fantastico urlava e diceva ai telespettatori di urlare dalla finestra. Ecco, in realtà quella era un'idea sicuramente non sua, ma presa da un film di ben 11 anni prima. Si tratta di Quinto Potere di Sidney Lumet, che andrà in onda proprio questo martedì 9 alle 21:10 sulla 7. Sidney all'epoca, il regista, era reduce di grandi successi polizieschi come Serpico, Un pomeriggio di giorno da cani. Qui cambia totalmente genere e si scaglia con rabbia, ma anche con forte carica grottesca, contro lo strapotere dei media e della TV in particolare. La storia è quella di un anchorman, Howard Bale, che viene licenziato perché ha un calo di ascolti e annuncia in diretta che per questo si suiciderà. Una produttrice TV molto cinica, molto ambiziosa, fiuta l'affare, lo promuove a telepredicatore e iniziano a raggiungere dei picchi d'ascolto altissimi. Il film rivisto a destra sicuramente mostra qualche ruga, ma ci sorprende per la sua carica profetica, soprattutto per quello che fu quello che è adesso la deriva del linguaggio TV. Fu sicuramente un grande successo, fu molto amato, vinse addirittura 4 Oscar, tra cui quello meritatissimo al grande attore Peter Finch, che è indimenticabile nel suo ruolo di telepredicatore quando dice al pubblico di andare alla finestra e urlare: sono incazzato nero e tutto questo non lo accetterò più, alzatevi dalle vostre sedie in questo istante, andate. Dove vai? Voglio vedere se qualcuno sta urlando. Finestra, apritela e mettete fuori la testa e urlate, continuate ad urlare: sono incazzato nero e tutto questo non lo accetterò più. Sono incazzato nero e tutto questo non lo accetterò più. Sono incazzato nero e tutto questo non lo accetterò più. Sono incazzato nero e tutto questo. Anche per questa settimana è tutto e ci sentiamo la prossima settimana con nuove segnalazioni. Buona visione. E allora, grazie a Sara Sagrati, Quinto potere di Sidney Lumet, martedì, la 7, ore 21:10. Non perdetelo, perché è davvero un film straordinario e assolutamente precursore di chissà quanti argomenti. Noi andiamo a giocare ancora insieme con la terza e ultima traccia del nostro Blu-ray game di questa settimana. E come si chiama lei? Antonio Margareti. Ancora? Margareti. Un'altra volta, ma adesso vorrei proprio sentire la musica delle parole. È davvero una chicca quella che vi abbiamo fatto ascoltare adesso, anche se si sfiora un po' il ridicolo, ma capirete perché la prossima settimana. Se avete indovinato di che film si tratta, La Rosa Purpurea @radio24.it. E noi facciamo il consueto salto indietro di 7 giorni per svelare il quiz della settimana scorsa. Sentiamo una delle tracce che vi avevamo proposto. Nel frattempo Harry Lawson è morto. Harry Lawson? L'ho saputo. Già, sul serio? Aveva appena festeggiato i 51 anni. Ah. Che grandissimo chimico. Però era un gran fumatore. Era un fumatore. Quando una persona muore è un fumatore o un obeso. Ehi, la sapete l'ultima? Anche i non fumatori magri muoiono, già. Ok? Non sarà l'astinenza a salvarvi. Straordinario Woody Allen in uno dei suoi film più riusciti degli ultimi anni. Basta che funzioni, Whatever Works. Questo era il titolo. Hanno indovinato per primi Sabato e Domenica Luisa, Gianni Trapani di Milano e Flaminia Maradini, Carpaneto, provincia di Piacenza. Due donne quindi che riceveranno a casa il DVD di questo film, di cui ci parla il nostro Claudio Pofi, che è già in collegamento con noi. Ciao Claudio. Ciao Franco, un saluto agli amici in ascolto. Sì, il film distribuito da Medusa è di qualità eccellente sia per quanto riguarda il DVD che per il Blu-ray. Sono disponibili due tracce in italiano e inglese in Dolby Digital per il DVD e addirittura in DTS ad alta risoluzione per il Blu-ray. Purtroppo, come accade spesso, ovvero da sempre, per le opere del maestro Allen, sono sempre molto avare di extra. Nel caso dell'edizione italiana è disponibile il trailer del film, che non è presente nemmeno nell'edizione un video americana. E questo quindi per quel che concerne Basta che funzioni, in videoteca l'ultimo lavoro di Woody Allen. Noi adesso chiediamo a Claudio di restare con noi, fra poco lo richiameremo in causa. Prima però una parentesi con un grande nome del cinema italiano, quello di Francesco Citto Maselli, perché 01 distribuisce il suo ultimo film, passato tra l'altro a Venezia, Ombre Rosse, anzi Le Ombre Rosse. È un film che ha avuto poco spazio al cinema perché è uscito all'inizio di settembre, insomma non ha avuto molta visibilità. È un film particolare, impegnato come nella migliore tradizione del cinema di Maselli, che torna dopo 2 anni dal bellissimo e altrettanto impegnato Civico Zero. Allora noi abbiamo sentito Citto Maselli e gli abbiamo chiesto se l'uscita in DVD può essere considerata una seconda vita per un film così particolare, di nicchia. Sentiamo Citto Maselli. Ma guardi, mi viene incontro proprio a quello che penso anch'io, anche perché poi c'è stato, oltre a quello che lei diceva, cioè il meccanismo di induzione di favorire un certo tipo di domanda, il film è stato anche fatto uscire a livello nazionale subito dopo Venezia, cioè il 4 settembre, in un momento in cui la gente non era ancora tornata dalla villeggiatura nelle grandi città, cioè, insomma, c'è stato proprio anche un errore di date. Per me è fondamentale questo rilancio attraverso il DVD, anche perché forse un film di autocritica della sinistra è la ripetizione per me di quello che io feci con il mio partito di allora, che era il Partito Comunista, nel 1970, con Lettera Aperta a un giornale della sera, che era un'autocritica da comunista, un'autocritica al mio partito. Adesso, diciamo, è da uomo di sinistra, è un'autocritica a tutta la sinistra. Ecco, come ha raccontato, il suo film racconta proprio di questo, cioè del rapporto difficile fra una sinistra un po' paludata, un po', diciamo così, fatta di intellettuali che ormai hanno perso un po' il contatto con le radici e con soprattutto con il popolo, che dovrebbe essere il pane quotidiano della sinistra, e invece questo gruppo di ragazzi che vorrebbero gestire in tutta libertà un centro sociale. Quando ci arrivano sopra gli intellettuali rischia di diventare un'operazione multimediale, commerciale e di un altro tipo, no? Sì, è un po' questo, lei ha ragione, questa è una delle... Però al tempo stesso io ho cercato di raccontare queste cose in modo non i buoni e i cattivi, cioè gli intellettuali che rovinano tutto e i giovani. Io ho cercato di raccontare la complessità oggi, che quella è la tragedia, se vogliamo, perché c'è una ragione in tutto questo, c'è una complessità sia nel mondo, diciamo, più istituzionale degli intellettuali, e però al tempo stesso anche all'interno dei giovani dei centri sociali ci sono contraddizioni, contrasti, amarezze, per cui poi alla fine la produzione conclusiva è la vittoria delle destre. Ecco, Baselli, le faccio un'ultima domanda. Potremmo dire in sintesi che in fondo tutte e due le anime del suo film, quella intellettuale e quella più di movimento, fanno fatica a misurarsi col nuovo? È un po' questo il problema della sinistra? Ma si potrebbe dire, si può dire anche così. Mi pare che sia molto legittima la sua interpretazione. Grazie Francesco Baselli. Grazie a voi. Cito Baselli alla Rosa Purpurea per parlare del suo Le Ombre Rosse in uscita da 01 in DVD. Andiamo a un film straordinario di uno straordinario regista, David Lynch, uno dei suoi incubi più intricati, Strade Perdute. È la nostra camera. Ci sono altre stanze da letto? No, a dire il vero, sì, ma la uso come studio. È insonorizzata. Lei è un musicista? Sì. Che strumento suona? Tenore, sax tenore. Lei... No, non ho orecchi. Avete una videocamera? No, Fred le detesta. Preferisco ricordare le cose a modo mio. Si spieghi meglio. Come le ricordo io, non necessariamente come sono avvenute. Musicista jazz, Fred è uno schizofrenico affetto da personalità multiple, incapace di sopportare anche solo l'idea che la moglie René lo tradisca. Accusato di uxoricidio, finisce condannato a morte, trasportato in carcere in attesa dell'esecuzione, ma un giorno al posto di Fred nella cella i secondini troveranno un giovane sconosciuto. Opera cult di Lynch che mescola noir e horror, questi due generi fondono le proprie coordinate sino a venire inghiottiti in questo oscuro cortocircuito surreale. Il DVD di Koch Media è di ottima qualità video, contrariamente a quanto segnalato sul retrocopertina, solo la traccia in inglese è stereofonica, mentre l'italiana è in Dolby Digital multicanale. Come extra abbiamo il trailer e un libretto di approfondimenti. Grazie allora a Claudio Pofi per averci raccontato anche Strade Perdute in uscita in un video. Noi chiudiamo qui la nostra puntata della Rosa Purpurea. Appuntamento alla prossima settimana, il sabato alle 18, la domenica alle 15, qui su Radio 24. Un saluto da Franco D'Assisi.